Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il monaco di Matthew Lewis nella versione di Antonin Artaud, traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. Tutto preso dal suo tentativo di consegnare alla giustizia gli assassini della sorella, Lorenzo non sospettava minimamente quel che si tramava contro di lui. Egli aveva fatto ritorno a Madrid la sera stessa del giorno in cui Antonia era stata sotterrata. Consegnare al grande inquisitore l'ordine del cardinale Duca, in seguito alle rivelazioni di madre Sant'Orsola, sconvolta dal trattamento che la badessa aveva riservato ad Agnese. Mettere suo zio e don Ramirez al corrente dei suoi piani, raccogliere una truppa abbastanza numerosa per poter far fronte a ogni eventualità. Ce n'era di che tenerlo pienamente occupato per le poche ore che ancora gli restavano prima della mezzanotte. Non ebbe tempo, in queste condizioni, di prendere notizie della donna che amava, e certo era ben lontano dall'immaginare che Elvira e sua figlia avessero nel frattempo cessato di esistere. Quanto a don Raimondo, pareva che non avesse altro desiderio che raggiungere al più presto Agnese nella tomba. Solo il piacere della vendetta lo teneva ancora legato al mondo, ed egli seguiva smaniosamente Lorenzo nel suo tentativo contro il monastero. Quando questi fu giunto davanti a Santa Chiara, una folla numerosa ne nascondeva l'ingresso, e Lorenzo, gli arcieri, don Ramirez de Meio e suo zio passarono del tutto inosservati, ma qualcuno riconobbe il duca di Medina e subito il popolo indietreggiò per fargli strada. Lorenzo dispose le sue truppe davanti al portone principale attraverso il quale doveva passare la massa dei pellegrini e, ormai sicuro del fatto suo, attese l'arrivo della badessa che era annunciato per mezzanotte in punto. Il suono dell'organo saliva attraverso le vetrate illuminate e a intervalli il coro delle monache cedeva a un assolo melodioso. Cantava una delle più belle ragazze di Madrid, scelta per interpretare nella processione la parte di Santa Chiara. La folla, affascinata dalla potenza di quella voce, si era irrigidita in un unanime raccoglimento dovuto in gran parte all'emozione artistica. Devoti e beghine non guardavano tanto per il sottile, ma Lorenzo, che conosceva meglio di chiunque altro quali bassezze si nascondessero dietro a quei pii canti, osservò non senza impazienza quella manifestazione di bigotta ipocrisia. Proprio mentre l'orologio del convento suonava la mezzanotte, le voci si spensero e le torce cessarono di incendiare le vetrate. Era giunto il momento di agire, e Lorenzo, tremando d'angoscia, si preparò a dare esecuzione al suo piano. Dispose gli arcieri con la più grande cura, sospettando che l'arresto di una religiosa non sarebbe stato troppo agevole in mezzo a quella folla fanatica. Il buon esito dell'operazione dipendeva in gran parte da madre Sant'Orsola, le cui accuse, si diceva, sarebbero bastate a giustificarlo. «Dio sia lodato! Ecco suo fratello!» disse Sant'Orsola. Sollevato dalla sua ansia, Lorenzo si dispose ad ammirare la cerimonia con maggiore tranquillità. L'attenzione improvvisamente centuplicata della folla, i mormorii e gli spintoni della gente che si alzava sulla punta dei piedi per meglio vedere, gli fecero capire che la processione era giunta alla fine. In quell'istante ne vide apparire l'ornamento più prezioso. Su una specie di trono, tutto infiammato dallo sfolgorio delle pietre preziose e ruotante, su due cilindri nascosti, scorse qualcosa come un idolo rivestito di stoffe sfarzose con in capo una corona di autentici diamanti. «Chi è?» domandò qualcuno accanto a lui. «È una donna la cui bellezza è da qualche tempo celebre in tutta Madrid. Si chiama Virginia di Villa Franca, è parente della badessa ed è stata scelta non senza ragione come l'ornamento della processione. Immediatamente dopo il trono apparve la badessa. Aveva la sua abituale aria di devozione, con gli occhi al cielo, i lineamenti rigidi, e sembrava assolutamente estranea all'entusiasmo che si scatenava intorno a lei. Passò accompagnata dalle preghiere e dalle benedizioni della marmaglia. Ma quale non furono la confusione e la sorpresa di tutti quando Don Ramirez, uscendo dalla folla, si avanzò verso di lei e l'afferrò per il colletto. La superiora restò per un attimo senza parola per lo stupore e per l'indignazione, ma subito, riprendendosi, mosse verso la folla e, chiamandola testimone dell'ingiuria che le veniva fatta, cercò di aizzarla contro il suo aggressore. Il popolo stava per obbedirle e per un momento Don Ramirez temette di essere travolto, ma radunati i suoi arcieri fece mettere loro mano alla spada e li lanciò contro la folla. Seguì un momento di confusione totale. Un silenzio tremendo era sceso sulla piazza e Don Ramirez ne approfittò per gridare con quanto fiato aveva in gola che agiva per conto dell'Inquisizione. A quel nome tanto temuto tutte le braccia ricaddero e tutte le spade rientrarono nel loro fodero. La badessa impallidì e cominciò a tremare. Il silenzio era diventato terribilmente pesante e, sentendo che non poteva più contare sulla folla e che doveva ormai far fronte al pericolo che la minacciava, pregò con un filo di voce Don Ramirez di rivelarle di quale delitto la si accusava. «Ve lo diremo a tempo e luogo opportuno», rispose questi. «Ma prima devo vegliare alla sicurezza di Madre Sant'Orsola». «Madre Sant'Orsola?» ripeté la badessa inebetita, e in quel momento i suoi occhi caddero per caso su Lorenzo e sul duca, che si trovavano accanto a Don Ramirez. «Gran Dio!» gemette, battendo le mani una sull'altra. «Gran Dio! Sono tradita!» «Non tradita!» inveì Sant'Orsola, che arrivava proprio allora. «Non tradita, ma smascherata. Vengo per accusarvi, e non immaginate nemmeno fino a che punto io sia al corrente del vostro delitto». È di Agnese di Medina che oggi voglio parlarvi. L'amavo di un affetto sincero. E non ero la sola a esserle così attaccata. La sua pietà, il suo zelo, la purezza della sua condotta, le sue virtù angeliche erano l'edificazione di tutto il convento. E la stessa badessa, così dura verso tutti, aveva un debole per lei. Sfortunatamente siamo tutti peccatori. E anche Agnese aveva le sue debolezze. Essa infranse le regole dell'ordine e da quel giorno l'odio della superiora la perseguitò implacabilmente. Furono convocate in consiglio le 12 suore più anziane e io ero fra quelle. La badessa si accanì a darci della colpa di Agnese l'immagine più nera e a dipingercela con le tinte più accese. E devo dire che delle 12 che eravamo, ben 9 religiose approvarono la sua barbara decisione. Quanto a me, non potevo risolvermi a considerare Agnese definitivamente perduta. La sera del terzo giorno dopo questa riunione ci fece dire che Agnese sarebbe stata interrogata l'indomani e che la sua pena sarebbe stata aggravata o mitigata secondo il contegno che avrebbe tenuto in quell'occasione. La notte precedente all'interrogatorio scivolai nella cella di Agnese per cercare di confortarla. Ci accordammo su un certo numero di segni per mezzo dei quali l'avrei avvertita di rispondere negativamente o affermativamente alle insidiose domande della superiora, che, ne ero certa, avrebbe fatto il possibile per metterla in imbarazzo e spingerla a firmare essa stessa la sua condanna con delle risposte maldestre. Sapendo che era sorvegliata da vicino e che la superiora poteva venire da un momento all'altro, mi accingevo a lasciarla quando udii improvvisamente dei passi. Ero già accanto alla porta e stavo per aprirla. Il rumore dei passi mi fece indietreggiare fino in fondo alla cella. Una tenda che dissimulava un enorme crocifisso mi servì da nascondiglio e mi affrettai ad appiattirmi dietro di essa. La porta si aprì. e apparve l'abatessa, seguita da 4 monache. Si avvicinò al letto di Agnese e le rinfacciò con i termini più violenti la sua colpa, urlandole che considerava suo dovere sbarazzare la terra di un simile mostro. Le ordinò poi di bere il contenuto di una coppa che una delle monache le tese. Sospettando le funeste proprietà del liquido e vedendosi già morta, la sfortunata ragazza si buttò ai piedi della superiore e si sforzò di impietosirla. Vedendo che le sue implorazioni erano inutili, Agnese cercò di lottare e fece per slanciarsi verso la porta, ma la badessa, indovinando il suo disegno, estrasse un pugnale dalla tonaca e, rigettando violentemente Agnese sul letto, le appoggiò la punta della lama sul seno, giurandole che, se avesse gettato un solo grido e avesse continuato a rifiutarsi di bere, le avrebbe trapassato il cuore all'istante. Già mezza morta di paura, Agnese cessò ogni resistenza, bevette e tutto fu consumato. Le monache la circondarono allora in una ruota di maledizioni, rispondevano con sarcasmi alle sue preghiere e avvelenarono i suoi ultimi istanti. Morì nella disperazione e la sua agonia dovette saziare l'odio delle sue nemiche. Non appena fu spirata, la badessa si ritirò, seguita dalle sue complici. Sant'Orsola tacque, ma le sue ultime parole si erano perse tra le urla della folla, il cui furore sfiorava in quel momento la rivolta. Aveva un bel giurare che non era colpevole della morte di Agnese e urlare con quanto fiato aveva in gola che avrebbe potuto scagionarsi nel modo più completo da ogni sospetto. Gli ammutinati tenevano ormai la loro vendetta e non erano disposti a lasciarsela sfuggire. La coprirono dei più atroci insulti, la scaraventarono a terra e le riempirono la bocca e tutto il corpo di escrementi. Se la lanciavano gli uni agli altri, ciascuno trovava per tormentarla una nuova crudeltà. Ne soffocarono le grida a colpi di stivale, la denudarono e trascinarono il suo corpo sul selciato, flagellandola a ogni passo e riempiendo le sue ferite di sputi e di immondizia. Dopo averla strascicata per i piedi ed essersi divertiti a far rimbalzare sulle pietre il suo cranio insanguinato, la rimisero in piedi e a calci l'obbligarono a correre. Un sasso lanciato da una mano più esperta le fracassò la tempia, stramazzò a terra e subito qualcuno le schiacciò il cranio sotto il tacco. Dopo pochi secondi era spirata. La folla si accanì sul suo corpo e, per quanto quella che era stata la badessa di Santa Chiara non potesse ormai più sentire né rispondere la canaglia, continuò a chiamarla con gli epiteti più odiosi. Fecero ruzzolare il suo cadavere ancora per un centinaio di metri e non si stancarono che quando fu ridotto a una massa di carne senza nome. Lorenzo aveva assistito a tutti questi orrori senza poter intervenire. Gli arcieri, troppo poco numerosi, erano stati sopraffatti dalla folla ed avevano fin troppo da fare per difendere la loro vita. In un parossismo di furore, la Marmaglia si riversò sul convento, ben decisa a non lasciarne in piedi una sola pietra. Lorenzo, cosciente di essere causa della catastrofe, si prodigava per restringerne il più possibile gli effetti, cercando almeno di proteggere le suore. Ma il divampare delle fiamme aveva messo in fuga gli insorti ed egli dovette badare alla propria incolumità proprio in quel momento. La folla si precipitò fuori del convento con la stessa foga con la quale vi era penetrata. La fiumana ingorgò le uscite e molti perirono nel rogo prima di avere potuto mettersi in salvo. La buona stella di Lorenzo, lo condusse davanti a un portoncino che si apriva in una galleria secondaria della cappella. Il catenaccio era tirato, l'aprì e si trovò all'imbocco del sotterraneo di Santa Chiara. Vide che la porta del sotterraneo si apriva lentamente. Qualcuno sporse fuori la testa, ma rendendosi conto che c'erano degli estranei, gettò uno strillo acuto e si tirò indietro di corsa verso la scala di marmo. Lorenzo sobbalzò. «Che vuol dire?» esclamò, e fiutando qualche nuovo mistero, si lanciò nel sotterraneo all'inseguimento del fuggiasco. La porta in alto era rimasta spalancata, e attraverso il suo varco le fiamme proiettavano un bagliore intenso che permetteva a Lorenzo di distinguere la forma che correva in fondo al labirinto. Bruscamente questo soccorso gli mancò. Il sotterraneo girava a gomito, le tenebre lo circondarono e non poté seguire il fuggitivo che attraverso il suono smorzato dei suoi passi. Si arrestò per riflettere al modo migliore per continuare l'inseguimento. Solo un motivo eccezionale poteva avere condotto il fuggitivo in quel luogo sinistro a un'ora così insolita. Il grido che aveva udito era senza dubbio un grido di terrore, ed era certo che quella storia nascondeva un nuovo mistero. Dopo qualche minuto di esitazione, riprese la sua marcia, avanzando a tastoni lungo i muri. Era già passato un po' di tempo quando scorse a pochi metri da lui una luce che brillava. Tenendola d'occhio, si diresse con la spada sguainata verso il luogo dal quale la luce sembrava provenire. Si trattava di una lampada che ardeva davanti a una statua di Santa Chiara, e tutto intorno ad essa stavano delle donne. Le loro vesti bianche tremavano, agitate dal vento che soffiava rintronando sotto le volte, domandandosi che cosa le avesse mai spinte a radunarsi in quel luogo sinistro. Lorenzo si avvicinò cautamente. Le donne avevano l'aria di essere impegnate in una conversazione molto animata e non si accorsero di lui. Poté così avvicinarsi abbastanza da udire le loro voci. «Te lo giuro», diceva quella che parlava in quel momento e che le altre ascoltavano con la più grande attenzione. «Vi giuro che li ho visti con i miei occhi». Mi sono precipitata giù per la scala, mi hanno seguita e ho dovuto faticare per non cadere fra le loro mani. Senza la lampada non vi avrei mai ritrovate. Mentre parlava, il suo sguardo sollevandosi aveva incontrato Lorenzo, che non aveva smesso di avanzare lentamente. «Gli assassini!» urlò. «Risparmiatemi!» gridò. «Per l'amor di Dio, risparmiatemi! Sono innocente, vi giuro che sono innocente!» La sua voce era strozzata per lo spavento. Alla luce della lampada che illuminava in pieno il suo viso scoperto, Lorenzo riconobbe la bella Virginia di Villafranca. Si affrettò a sollevarla e a rassicurarla, promettendole di proteggerla contro gli assalitori e spiegandole che nessuno conosceva quel nascondiglio. D'altra parte, soggiunse, egli l'avrebbe difesa fino all'ultima goccia del suo sangue. «Volesse il cielo», esclamò Virginia, «che mi trovassi già al sicuro fra le braccia di mia madre. Che dite, signor? Dovremo aspettare a lungo prima di poter uscire di qui. Ogni momento in più che vi resto è per me una tortura». «Ne uscirete presto, spero», le rispose Lorenzo, «ma fino a quando non potrete farlo senza pericolo, questi sotterranei saranno per voi un rifugio impenetrabile. Qui non correte alcun pericolo, e vi consiglio di starvene tranquille ancora 2 o 3 ore. «2 o 3 ore?» sbottò suor Elena. «Ma se vi resto ancora un'ora morrò di paura. Per tutto l'oro del mondo non accetterei di provare un'altra volta quel che ho passato in questo luogo. Vergine santa! Trovarmi in piena notte in un posto tanto sinistro, circondata dai cadaveri delle mie compagne defunte, aspettando da un momento all'altro di essere fatta a pezzi dai loro fantasmi. Perdonatemi», la rimbeccò Lorenzo, «se mi stupisco che, minacciata come siete da pericoli reali, troviate il tempo di occuparvi di quelli immaginari». «Ascoltate, ascoltate voi stesso», interruppe Virginia, terrorizzata. Dio ci guardi, eccolo, ancora. Le monache giunsero le mani e caddero in ginocchio. Lorenzo si guardò intorno con inquietudine, contagiato dal terrore che si era impadronito delle donne. Il silenzio era profondo. Scrutò il sotterraneo, ma non vide nulla. Stava per schernire le monache per le loro paure infantili, quando la sua attenzione fu richiamata da un lungo e sordo lamento. «Che cos'è?» balbettò sobbalzando. «Ecco, signor!» inveì Elena. «Adesso sarete convinto! Avete udito voi stesso il rumore. Giudicate voi se i nostri terrori siano immaginari. Ma quando siamo qui, questo gemito si è ripetuto ogni 5 minuti!» Lorenzo, che seguiva la direzione del suono, notò che esso era più distinto accanto al reliquario di Santa Chiara. «Il rumore viene da qui», disse. «Che cos'è questa statua?» Elena, cui era rivolta questa domanda, restò per un attimo senza rispondere. Bruscamente giunse le mani. «Che pericolo c'è?» chiese Lorenzo. «Madre di Dio, chiede che pericolo c'è!» sbuffò Elena. «Guardate l'anello al dito della santa, signor! Un ladro ha cercato di impadronirsene!» E a questo scopo salì sul piedistallo. Per sostenersi, afferrò il braccio destro della santa e tese il suo verso l'anello. E quale non fu la sua sorpresa nel vedere la statua alzare su di lui una mano minacciosa e intimargli la dannazione eterna. Intriso di terrore e di costernazione, abbandonò il suo tentativo e cercò di uscire dal sotterraneo, ma anche questa speranza fu frustrata. Non riuscì a liberare la sua mano che era rimasta stretta fra il braccio e l'avambraccio della santa. E furono costretti a tagliargliela una volta che lui ebbe chiamato aiuto. «Lo vedete? È ancora lì! Non abbiate dunque tanta folle arroganza, signor! Per l'amor del cielo, rinunciate al vostro disegno e non esponetevi senza necessità a una morte sicura!» Non troppo convinto che la sua morte sarebbe stata così sicura quanto Elena sembrava credere, Lorenzo persisté nella sua decisione. Stava pensando alla stranezza di quel fenomeno dei lamenti e teneva fissi sulla santa 2 occhi scrutatori quando, a un tratto, il suo sguardo si arrestò sulla mano disseccata e gli venne in mente che la proibizione tanto insolita di toccare il braccio della statua non poteva essere stata fatta senza ragione. Esaminò l'oggetto della sua riflessione e scoprì un piccolo pulsante di ferro nascosto fra la spalla della santa e quella che si supponeva essere la mano del ladro. Questa scoperta lo elettrizzò. Mise il dito sul pulsante e lo premette con forza. Immediatamente all'interno della statua si udì un rumore sordo, come di una catena ben tesa che si distaccasse. La statua rivelò una botola. I gradini erano così stretti e bitorzoluti che a scenderli pareva di camminare sulla costa di un precipizio. Man mano che avanzava, Lorenzo sentiva un freddo pungente penetrargli nelle vene, ma il ripetersi dei lamenti lo indusse a proseguire. Si volse e al fioco barlume della lampada vide in un angolo di quell'inumana dimora una creatura distesa su un pagliericcio, così miserabile, smagrita, pallida, che non seppe dire se era una donna. Lorenzo si arrestò, pietrificato dall'orrore. Guardava quell'infelice creatura con un miscuglio di pietà e di ripugnanza. Rabbrividì. Sentì che il cuore gli mancava, le forze lo abbandonarono e le gambe vacillarono sotto il peso del corpo. La creatura sollevò lo sguardo verso la scala. Il muro nascondeva Lorenzo ed essa non lo vide. «Nessuno viene», disse dopo un attimo. La sua voce era vuota, quasi un rantolo spezzata da amari sospiri. «Nessuno viene», ripeté. «No, mi hanno dimenticata. Non verranno più». Si arrestò, rabbrividendo. e si coprì le spalle con la coperta. Ho freddo. Ancora non riesco ad abituarmi all'umidità di questa cella. È strano. Non importa. Tra poco sarò più fredda di queste pareti e non sentirò più nulla. Sarò fredda. Fredda come te. Fissò l'involto che si teneva stretto al seno. Si chinò e lo baciò. Poi ritrasse bruscamente la testa in un brivido di disgusto. Era così bello. Sarebbe stato così affascinante, così simile a lui. E l'ho perduto per sempre. Credevo di avere consumato tutte le mie lacrime, ma ecco, sgocciolano ancora sulle mie guance. Si asciugò gli occhi con una treccia di capelli. Poi tese la mano verso la brocca e la raggiunse a fatica. Darei dei tesori per una sorsata d'acqua. E sono delle serve di Dio che mi fanno soffrire in questo modo. Si credono sante e mi torturano come demoni. Sono crudeli e inumane e dicono a me di pentirmi. Come possono minacciarmi la dannazione eterna, Signore? Signore, voi non giudicate così. Lorenzo, nell'udire queste parole disperate, si sentì ancora più penosamente turbato. Il primo sguardo gettato su quella disgraziata gli aveva dato un tuffo al cuore, ma rimessosi da questa impressione, avanzò verso la prigioniera. Essa udì i suoi passi e, lanciando un grido di gioia, lasciò cadere il rosario. «Sì, sì, sì!» esclamò. «Qualcuno viene!» Cercò di mettersi in piedi, ma non ebbe la forza. Ricadde sul pagliericcio e Lorenzo sentì un rumore di pesanti catene. Continuò ad avvicinarsi mentre la prigioniera riprendeva a parlare. «Siete voi, Camilla? Finalmente venite? Oh, era ora! Credevo che mi aveste condannata a morire di fame. Datemi da bere, Camilla, per pietà!» «Non sono Camilla», disse Lorenzo con una voce lenta e dolce. «Chi siete, allora? Mi portate forse da mangiare? O venite soltanto per annunciarmi la morte e per contare le ore della mia agonia?» «Calmatevi», disse Lorenzo con voce dolce e pietosa. «La feroce badessa ha già subito la pena dei suoi delitti. Non avete più nulla da temere da parte sua. Tra pochi minuti sarete restituita alla libertà e agli abbracci dei vostri genitori. Potete contare sulla mia protezione. Datemi la mano e non abbiate paura. Lasciate che vi conduca in un luogo dove possiate ricevere le cure di cui avete bisogno.» «Sì, sì, sì», proferì la prigioniera in un urlo di gioia. «C'è dunque un Dio giusto, felicità, felicità. Respirerò l'aria pura, la fiammeggiante luce del sole. Vengo con voi, straniero, vengo con voi. Il cielo vi benedirà per la pietà che avete avuto di una sventurata, ma bisogna che anche lui venga con me», aggiunse, indicando il piccolo involto che continuava a stringersi al petto. Nel movimento che Lorenzo aveva fatto per abbassarsi, la luce della lampada investì in pieno il suo volto. «Dio onnipotente!» urlò la prigioniera. «È mai possibile? Quest'aria, questi lineamenti? Sì, Tese le braccia per gettarle intorno al collo di Lorenzo, ma il suo corpo, troppo fragile, non fu in grado di resistere alle emozioni che l'agitavano, svenne e ricadde sul pagliericcio. Lorenzo fu sorpreso da quest'ultima esclamazione. Gli parve di avere già udito quella voce, ma dove? Non riusciva a ricordare. Il chiarore della lampada in alto e il mormorio delle voci delle donne guidarono i suoi passi. Raggiunse i gradini e pochi istanti dopo era alla griglia di ferro. Tutti i cuori si riempirono di compassione per la sventurata che egli portava fra le braccia, mentre le monache e in particolare Virginia cercavano di farla rinvenire. Lorenzo raccontò in poche parole il modo come l'aveva trovata. Poi fece loro osservare che nel frattempo il tumulto doveva essere stato domato e che poteva condurle senza pericolo dai loro genitori. Tutte erano impazienti di lasciare il sotterraneo, ma per prevenire ogni possibilità di oltraggio supplicarono Lorenzo di precederle per vedere se c'era ancora pericolo. Lorenzo acconsentì ed Elena si offrì di accompagnarlo fino alla scala. Stavano già per incamminarsi quando un vivo bagliore infiammò in più punti i muri circostanti. Contemporaneamente si udirono i passi di persone che si avvicinavano in gran numero. Le monache tremarono di paura, immaginando che il loro rifugio fosse stato scoperto e che gli assalitori venissero a portarli via. Abbandonando la prigioniera, che non si era ancora mossa, si assieparono precipitosamente intorno a Lorenzo e reclamarono la protezione che egli aveva promesso. Solo Virginia, con assoluta abnegazione, continuava a darsi da fare intorno alla povera inferma. «Verranno a prendervi il duca e don Ramirez», disse Lorenzo. «Il duca scorterà voi tutte fino a casa con gli arcieri. Sarete fuori pericolo». Le torce scintillarono e don Ramirez avanzò nel sotterraneo. Aveva appena sceso qualche scalino quando udì dei passi che correvano in una delle gallerie. Stupito, risalì precipitosamente. «Avete sentito dei passi?» gridò Lorenzo. «Andiamo, vengono da questa parte». In quell'istante un urlo acutissimo gli fece affrettare il passo. «Aiuto! Aiuto!» «Per l'amor di Dio!» strillò una voce il cui accento melodioso gelò di terrore il cuore di Lorenzo. Egli volò verso quel grido con la rapidità della folgore e don Ramirez lo seguì con la stessa rapidità.